Rimanendo in tema di rifiuti, si racconta che Cavallo Pazzo, una volta, sono quasi sicuro al 100% che fosse proprio lui, fece notare a uno Yankee quanto i bianchi fossero spreconi. L'eroe della resistenza indiana, potremmo definirlo così, parliamo naturalmente degli indiani d'America, trovò infatti incomprensibile che ci si lavasse le mani unte, visto che il grasso è un ottimo balsamo per la pelle, meglio semmai spalmarselo anche sul resto degli avambracci. Insomma, con le dovute eccezioni, ciò che è rifiuto per qualcuno è spesso risorsa per qualcun altro, e persino dalle cose più schifose si può ricavare qualcosa di buono, basta gestirlo come si deve. E allora lasciatemi fare un piccolo elenco di schifezze, di come si sta pensando di utilizzarle, anche per alleggerire un po' dopo la discussione assai più seria, per la verità, che si è svolta finora sui rifiuti. Allora, al terzo posto in ordine di schifezza io metterei la raccolta dell'umido, insomma gli scarti della cucina. Ebbene, in Svezia, per esempio, si sta favorendo la diffusione di dissipatori, cioè trituratori di rifiuti innestati direttamente nel lavandino che li riducono in poltiglia. Per anni questa pratica è stata vietata per non appesantire la depurazione delle acque, perché questi rifiuti evidentemente finiscono negli scarichi fognari. Ora invece si è scoperto che così facendo si trasformano le fogne in impianti per la produzione di biogas. Questo sempre che si sia in grado poi di intercettarlo, questo gas. Al secondo posto, quanto a schifezza, possiamo mettere forse gli assorbenti, pannolini vari, naturalmente usati. C'è chi ha scoperto, ebbene, che con un passaggio di centrifuga ci si tira fuori dell'ottima cellulosa. E al primo posto invece indubbiamente vanno pipì e pupù, anzi insomma chiamiamola col suo nome, cacca. In Svizzera, pensate un po', stanno studiando water a raccolta separata, praticamente divisi in due. Il punto è che la pipì umana gioca un ruolo rilevantissimo nell'eutrofizzazione dei laghi. Molto meglio dunque separarla e trasformarla in concime, tra l'altro ottimo concime. La parte solida infatti pone assai meno problemi e anzi, una volta separata dall'urina, diventa anche più facile da smaltire negli impianti di depurazione. Insomma, anche lei non è così brutta come la si dipinge. A settimana prossima!